cerché tu dai. And pray you find your light. Nel cuore resterà. And hold it in our hearts. A ricordarci che the stars go out each night. L'eterna è stella sei. Nella mia preghiera. Quanta fede c'è. When shall I feel our day? Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we. We ask the love be kind. The best is best.